lui che non lo sente. Non lo sento Luigi, basta che venga qua, ti prego, lo sento lo stesso. Anche tu. Mi sembra più cosa la voce, altro non mi viene il nome. Francesco, tu, no, sei un visto qua, Francesco è tu, avanti Francesco Torino, Luigi non ti ha riconosciuto. Ah, non mi ha riconosciuto. Oh Luigi, allora, com'è, come stai riconoscendo? Ehi a Francesco, ma sai che mi sembrava l'alcoso Torino, che da una maniera di tempo mi conosce. Sembrava Torino, mi sembra che Torino da un. Torino da l'altro da Austria. A me sembra di lui la voce, non so. Ecco, due giorni sono sempre con lui, chi sa dove cavolo è andata qui, quest'anno non si trova niente con l'acqua di lui, l'anno scorso non ho sentito, ma quest'anno negativo non ho sentito, si è venuto tutto, si è venuto la testa, quello. No, io ho detto che così si può fare che non stava tanto bene. No, non so se Giovanni ha quanto devo cambiare. Perché io mi ricordo che non stava facendo dei problemi, quello e quell'altro, e niente, non ho più sentito, dico la verità. E poi c'è prima in fatto che sembrava lui, capito, mi sembrava più comune. Sì, è perché con Gio Maria. Con Gio Maria ci sembrava parecchio assieme. Quindi, sì, già hai ragione, sì, ho sentito un sacco di volte parlare assieme, però quest'anno proprio non ho. L'anno scorso è che lo sentivo, quest'anno negativo, non ho sentito più, l'anno scorso. Scatta, magari lui lo saprà, non lo so, ma se tu non lo sa, lì, mi va bene. Io faccio di sentire qualcuno qua. Avanti, la voce conosciuta. Grazie. Eia, ho mandato avanti Gio Maria io. Gio Maria, ma più cosa se ci sei? Maria è impegnato, e allora cosa mi racconti di bello? Ah, grazie, a me che mi sono appostato. No, niente, ma tu mi hai sentito a Iacolino? No, oh, la verità diga, sono da fare che sto facendo, va bene che questo periodo non è che lo sto accendendo ogni giorno, perché sono impegnato, vai e torna e vai, visita qui, visita là, e dunque non è che ce l'abbia molto tempo, ma Gio Maria magari l'avrà sentito, ma se non si affaccia. Avanti. Ma si può avere un controllo radio? Sto uscendo, sì. Una bomba. Ma chi sei? Sei il basso di radio qua, chi ha parlato adesso? Ho parlato io, ho detto di me, da quanto bisogna pagare. Luigi sì, perché sei Luigi, però sei il basso, quanto devo pagare? Per darti questo controllo dipende da quanto paghi e ti do il controllo. Ah, non avevo compreso. No, ma siccome mi hai fatto il microfono, no? Un casino, devo mettere, l'ho trovato. Forse non mi sono addormentato. Io ho sentito solo boom, poi ho del letto, non lo so. Ma stai mescando, no? Perché io non ho fatto mai anche io per potermi ascoltare. Troppo alla grande, dai. sta bene, Luca. Ma hanno riporto gli altri, chi sono gli altri? Avanti. Graziano, che c'è. E c'è anche Francesco, che stanno avanti a Orani. Vai, Orani. Ma c'è anche Marte ancora più forte di voi, di segnale, non so chi è, ma avanti, chi è? Gianluca. Ah, ok, ciao Gianluca, anche a te. Vabbè, allora, meglio così, dai, sono stato fortunato per tre volte allora, che cosa c'è rotto? Riprendi tu, Uranio, avanti. Cazzo, ecco che, ti hanno detto di marachino per terra. No, il microfono. Ma no, lei, stai attento, il microfono era delicato, mi sei rompi quello, ciao. Ha finito lì, di volare. Cioè, stai attento, con le apparecchiature, sai che sono delicati, quindi ci vuole molta attenzione. Bene, bene, ok. Allora, grazie, ma ti saresti, non ti hai tappata stasera? No, non è che stavo pensando all'altra cosa, poi mi sto scartaffogliando qua un buon fritti di Kismet, spedizione gratis, ed è pieno di donzelle. Cosa ti è condizionato? Aspetta che noi andiamo all'ultra. Ciao, carino, come fai? Gianluca gli ozieri, non vedi Porto Torres. Franca, oggi stai arrivando fortissimo qua. Gianluca gli ozieri che sei barra pesante, barra. Gianluca sì, barra pesante. IBM. NBM lui. Sono il figlio di Lino 1. Grazie. Uranio. No, Uranio. Si chiama Lino, Lino. Lino 1, poi c'è un'altra ancora, ce n'è. Allora, ha detto che è il figlio di Lino 1. Ah, il figlio di Lino 1, sì. Tutto quanto, 80 kg. Dico mio padre, lo so, me l'ha detto. Allora hai capito chi sono? Allora hai capito chi sono? No, ho capito che sì, non ti conosco io, però l'ho chiamato e mi ha detto, sto aspettando tale persona. No, ma senta, ma che cosa è? Io sono passato in cambio, mi sono andato nel tuo caffè, mi ha sì, ci hanno detto proprio così, sto aspettando gente e poi ci siamo visti più tardi con lui, capito? Allora sì, in zona, sta arrivando un forte qua, sicuramente c'è la presa niente, buco. La peloce. Ah, ecco perché. Tutto quanto. Ma il gioco non è certo, ma è cambiato. quello che sia. Sei la S5 anche abbondante, perfetta. Prima faccio Radio 2, adesso ti avete, tanto l'avevo tirato io e tu avevo il micro in basso, vedete, per non fare l'eruzione, diciamo, alla pubblicazione del supermercato. Positivo, dai, ho abbassato per quel motivo lì e l'ho riabbasso, solo per farti vedere la differenza che c'è da me. Da... E le 3 watt così, sono 3 watt. Poi se la tua vostra, diciamo che ho un microfono, è ancora modificato, quindi è buia, cavolo, un'ultima modifica ho fatto con il microfono, con tutti gli è positivo, dai, ho fatto... come se facevano la mostra di cotturine, l'ho truccato. Quello l'ho mangiato a 125. Prima era un cinquantino, l'avevo l'ho fatto un novantino. Caspita. No, va bene, va benissimo. Bene. Avanti, grazie adesso. Le sacabaiseni, no, ci sono anche registrini pornografici, senza la coppola, e regge solo sotto, è tutto libero, Luigi. Ma cosa si controlla del diabete? Non ho capito, ma sai, ti stai comprando la biancheria da donna, perché? Faccio con te, sei passato dalla trasfonda, non sei più comunica. Allora, mi sto studiando un catalogo che mi mandano sempre, si chiama Bon Fritti, It is me, edizione gratis se faccio questi ordini, non pago il trasporto. E c'è un po' di tutto, abbigliamento femminile, abbigliamento maschile, unisecchi, sì, maschi e femmine, un po' misto, e ci sono varie cose, vari articoli, intimo, abbigliamento, un po' di tutto c'è, là. E me lo stavo scartando perché mi arriva tutti. Io ho capito, ma tu sei sempre sulla biancheria intima femminile, se la sorella ti dice sono queste registri così, e tu devi guardare la roba maschile, capito, non la roba femminile. Se sai già che vuoi fare un regalo a tua moglie, allora sì, ma se lo scegli lei non glielo devi scegliere tu. No, se tu gli fai un regalo, gli fai un regalo, come si dice, vedi, più intimo sì, c'è scritto. E c'è tutto col pizzetto nero, rosso, a disegnetti, e poi senza coppola, capito? Ci sono resi calze e varie cose, mi vino là, tu gli stavo la mia vita. Eccita. Hai capito, Francesco? Graziano, ciao Matteo del Sarto. E allora sta cercando le robe intime per farle dotare alla moglie, capito? Ma tu già sarei stato a prendere i tubi, allora per riuscire a recuperare sta cercando di dire la roba intima sì, per la moglie, capito cosa sta facendo? Anche lei è geloso, no? Doveva pure anche lei. Ma tu che ne hai sempre da mettere un po' di pezzame di rottame, sì. grazie a me. Se me ne rimane un po' di rompendo un po' di cosa, se me ne rimane in più lo carichiamo, se ne rimane, se me ne abbassa, voglio dire, preferirebbe operare un po' io, però se me ne abbassa devo rompere anche quelle cose, sta blocchetti, c'è anche quello lì, devo vedere un po', dai, è un po' di pensare, dipende, dai, se quando devo sfasciare ce ne già un bel po', però quello mi potrebbe anche dire. Il trattore con la palla è verde, uomo. Se vuole vengo con il trattore e faccio di munizione su, vuole le butto anche la casa. Se me la fai nuova da un'altra parte, io te la faccio buttare, capito? Se me la fai nuova da un'altra parte, o me la fai di a fianco, faccio la piscina, io te la buttare. Positivo, dopo lavoro sì, da quell'orario apriche, chissà che si affondi a due gare a due capo di due gare fuori che stanno facendo, anche adesso ci sono facendo. Ah, quindi c'è giù il foro, si va sciando. E voi sì, poi allora le due mi ha chiamato domani, e lì mi ha fatto arrabbiare, a me io mi piace domani lui a... Allora, no, ci sono io alle 10 per venire, alle 10, a me mai sta alle 11, cazzo vuoi, vai grazie se nati, cosa vuoi ti dire? Io già vengo alle 11, alle 11 e alle 5 devo portare per poter andare a partire a Cagliari, poi con il mucchio lì a caricare il coso, e niente, le devo portare a piazzare alle 5, 5 e mezza, ma non un momento, capito? Noi facciamo turni da 12 ore, grazie per il giramento di palle, grazie per il treno. Io sto facendo turni di corso, di frio di super 12 ore, devo dire che alle 5 sono la sera, alle 10, così, così, sono alle 10, capito? E niente, questo è perché questa parte che stiamo facendo, mi pare una l'ha finito oggi, una l'entra domani, no? Comunque stava facendo 24 su 24, era capito, 24 su 24 questa cosa. E siamo a scuola, c'erano gli altri autisti nostri che stavano facendo la turma. E adesso io lunedì sono a casa e riprendo alle 10 e mezza a Pato. Vado giù a punto, vedevo che faccio fino alle 5, là. Fino alle 5 poi vado a riposarmi e poi non so, riprendo probabilmente la notte. Vabbè, quando ce ne bisogna farlo. Avanti, buona agricola! Siamo a risolvere i fondi. Ecco. Sì, dai, facciamo girare a KP2, avanti KP2. KP2 c'è attentato. Uranio, riprendi tu. Ok. Benissimo. Allora, buona agricola, dove sta, diciamo? La lui è sempre, diciamo, in la faccenderia di, diciamo, di Trattorizia, in campo, magari sta, diciamo, mi pare che ho sentito che sta rullando il contiguato lì. Benissimo, se mi senti, Salvatore, salutare il conviale qua da parte mia, ok. Benissimo, bene, oh Capri. Ho fatto il rizoma, te lo dico subito. non mi sto poco e gattinato che non posso sono qua. Aspetta, ecco. Allora eccomi, forse ci sono. Vediamo qua. Vediamo no, qua, no, eccolo qua. Allora, Isoma, Isoma, Isoma. Allora mai grande rossetti non vuoi ragazzi, noi ti faccio in zona e noi, allora che mi cavalava, eccolo, allora, Reggiseno, per il più, per il zoma più Reggicalze, 73 pezzi, coppa di Ciedi, la coppa già lo sai cos'è. La coppa del gelato. Ah! La coppa del gelato. Queste sono due belle coppette. Beh, di tondi, cosa si posso dire? Con la rosellina al centro, perché sono esterne. La coppa è esterna. Regge là sotto. Ma io voglio un peso alla uomo, non è che mi devi. Non è che mi devi dare intimo alla donna. Scusa, se deve coprire bene tutto la mantreno, capito? Ah, sì, l'ho vista, aspetta che ti do parte, insomma, la uomo, no, sono di qua. Allora, per insomma, la uomo, uno, due, tre, un'e, la giuscattura, era pieno di mondanti, ha pure i mondandoni, viso, a te che cerco. Ma copia bene la mantreno, sennò qua rischio la galetta, avanti Luigi. Un attimo che lo cerchiamo, ma Luigi se lo potrebbe anche dare una mantreno. Se non mi manca io la mantreno, si tenga il suo. Ah, eccolo qua, allora c'è, per insomma Slitti, uno costa 1,29 euro, poi c'è sacco da 10, 12,90 euro, per insomma Slitti. Vedi che caratteristica, c'è coppia la mantreno bene. Copre tutta la parte dietro, ci sono le chiappe nude, c'è un filo solo, ma se no ci sono anche i boxer. Qui c'è una chiappa di quello civolo a Marrescari. Luigi, questo qui va bene, così è, dietro c'è un filo solo. Gianni, che macchina stai usando? Senza cannau, ha infilatura, c'ha gli elastici, c'ha, e sono belli. Luca, vai su un attimo. Lui, mamma mia, cucumiau, incabinara, incabinara. Drommi giù, drommi, a drommi poco, via, tu, fissa la taglia, è passato e ci sei sempre drummelli. Io c'ho il sonno facile, per cui mi devo rispondere, sono sempre stanco, tanto sto lavorando. E allora, manca Babbo Natale, hai visto? Sì, sì, no. Sì, travagli, qui non mette a te Olieri. E allora, io mi sono sapendo nei signorini nocchi. Ah, ma quello ci cura pure la battistoia, fai bene, fai bene. Comunque, chi c'è? Sempre due, Luigi Uranio. Poi non me lo ricordo. Dando la fine, mi sto guardando, grazie a Dai. Buon proseguimento di serata, dai, a te famiglia, e anche agli altri, dai. Ci sentiamo, grazie a domani se coincide. Ehi, ciao Giovanni, ricordate salutoni al centro, salutoni anche a tua, alla tua squadra, alla parte di Ruggi e di me, ciao! Ciao! Uranio! Ok, benissimo, basso, eh. Io sono qua in ascolto, Francesco malissimo, basso di radio e non va bene con la posizione, controlla. Provo a vedere adesso, sta uscendo, cos'è? Come sta? Sta uscendo, però non è che sia perché. Attenzione canale 5, sono andato a scoppiare qui, stazione di 2, la voce dell'altra gamba. Adesso sì, perfetto. Buona sera. Canale 4. No, ragazzi, male. Chi è passa al canale 4? Adesso va bene, cioè adesso sento sulla sopra, poi cosa? Hai detto che hai appoggiato fuori sopra, vuol dire che hai appoggiato? Aspetta, guffa, Sassari. Allora tu vuoi dire l'oscillazione dello switcher? Si è assentato in un attimino, Diciamo, rintrisciurito. Ma tu non volete la presto, ce l'ho bene, dai. Andiamo bene la palestra, magari era molto fermo e magari... Canale 5, attenzione, canale 5. Sento Gianni Capri 2. Capri 2. Buonasera, che c'è Capri 2? Senti. Sì, che ti sento, chi sei? Gio Maria sono. Ciao Gio Maria, buonasera, come sta? Sta presto? Va bene, va bene, ha gonfie vere. Andalo, e questo tipo che hai? Cazzo di te, tu sei no, cazzo ero di io che intendia. Poi lo so, perché non la gara mi ha fatto storta la testa, e l'ho smontata a casa, la sto aggiustando, la picco. A me mi pare che eri villeggiatura, tu di la verità, aiuto. Oh, ma vai, sta dormendo al porto, sta dormendo, pieno dell'orologio sta facendo. Oh, mamma. Sta canale 4, un attimino. Vai, vai, vai. Thank you. buttare via, buttare via già. Insomma, si tira avanti, si tira avanti. Buonasera anche a te, a Uranio, vai. Prova, prova, vai, sono in ascolto già. Sì, ma sono uscito perché devo fare un'altra visita e sto aspettando fino al giorno 12 mi tornerò a ricoverare. Dai, dai. Ora. Ok, Giovanni, mi hai sentito, sono tutto cordiale. Benissimo, ma Giovanni, non lo so, perché se ne avevo 15-5, ce l'hai ancora? Capito hai? Ho capito, ripeti. Ti ho letto che mi pare che tu una potenza, cioè, non è 25, così è. Eia, ho le 25 più un altro, ne ho, anche il turno più tre da tavolo, ciò. Già, ce li ho ancora, già. Ehi, ma ti sei fatto vedere, dice che lo prendevi. Io non l'ho dato, pensavo che venivi tu a prenderlo. Giovanni, a venire ci vuole posto, il fatto che ancora non sto trattando, capito? Il fatto che non mi avviso dal tabacco, dal municipio, calma, se no non lo posso prendere, capito? Per quello che non ho scelto io, capito? E poi intanto proseguo, troppo coraggiatore di qui, quando trovo disponibilità, diciamo, di porta a fuoco già mi faccio vedere io. Ti chiamo tramite casa, hai capito? Tanto c'è il numero che me l'aveva dato Cassiano, ok, hai capito? Sì, infatti, sì. Vabbè, dai qua. Quando ti serve mi telefoni e ci incontriamo, ok? Bene, bene, Gian Marino, benissimo, ok, ok, perfetto. Perfetto, Gianni. Narrati a radio bella gatta, è bella potente, sì, complimenti veramente. Bella, che microfono c'hai? Il tuo originale, Giovanni, ti ricordi, non so se l'hai mai avuto il Tocai, adesso ce l'ho preamplificato io questo microfono, ne ho preso il Tocai, però adesso non ce l'ha a posto. Ok, e come Giovanni, mi dispiace che sei stato male, niente, speriamo, sempre lì per l'altro parte, io mi sento anche, non mi sento bene. Yeah. Sì, ok. Alla voi ancora per il fegato, già, però peggio non si trovi adesso. Le punte del rovero fresche, bollite e bevute la mattina senza zucchero a digiuno. Fino a settimana sei a posto già. Surumi, già appunto è suruno, già, buttira su un bello mazzo, buttira un 2 litri di acqua, e la fa che già ridurre a 1 litro, e su mandato dopo faccio una tazza a satigiuna, senza zucchero, a sapere che devo appoggiare subito già. Ho fatto le cose, deve essere le barra agricola. Sto chiuso già. Saluta in casa e ci sentiamo domani se coincide. Buonasera anche a Uranio e buon proseguimento. Vai Uranio. Stressato, l'altro è per questo con gli ospedali, dove è volato? stato, diciamo, non lo so, quindi quello, diciamo, non lo so, vabbè, comunque ognuno, diciamo, la prima fa i suoi comodi e viene lui quello che deve fare. Benissimo. Comunque Portocalli è bellissimo, no, io ho fatto la battuta per fare, sì, è stato già sapevo che non venivi. Assolutamente, assolutamente. Dai, io non so se sarà più ancora, chi l'ha più vista quella lì, ce la prendo, la compagna Giara, Giara ce la prenda. Cazzo, Maria della, ce la prenda, non so bene che fine ha fatto, non vedo, vediamo se quella lì è presto sposata, abita fuori da qua dalla paese, non lo so, non lo so. La sua capita la stagione dell'informe. Cazzo, non è così, magari se mi capita, io credo se ce l'ha ancora, lo vedi. Sì, qualcuno, buonasera a tutti, doppio Rubio mi super cordializza. Ciao Gianni, buonasera, non so se mi ascolti. Ok, sono usando quella gente, un 5024, Gianni, mi ascolti? Se ne ha radio, da ma con il microfono non mai sì. È precompresso, no, questi cazzo. È precompresso. Ah, è bellissimo Gianni. La modulazione è chiarissima. Comunque buonasera a tutti, avanti a chi tocca. Ora riprendi. Ok, ben sentito Gianni, il dottor Rubio, saluto il diario. Benissimo, tu sai, la modulazione è identica, perché lui aveva la tua, cioè come il timbro di modulazione, una modulazione amplificata, una modulazione molto, cioè una voce molto, diciamo, distinta, capito? Intendo la modulazione di Gino Fanturo, lui aveva una modulazione così, mi ricordo ancora, ok, lui aveva questo timbro di modulazione molto, molto amplificata, molto, diciamo, distinta come voce anche, ok, capito? Grazie. Non c'è un graffio, è lucido, lucido. Ah, è un bel apparecchio, esce bene. Ho fatto una voce di Gino Fantuno, poco fa, hai sentito? Ah, ehi, abbiamo sentito già. Ecco, lo ha molto. È carissimo, è ok. Che Dio l'abbia accolto in pace, tutto in pace. Cazzo, va bene. Io non voglio mai andare via a girare, colpa mia là. Riprendi i doppi rubi. Ehi, c'era Gio Maria mi pare, avanti Gio Maria, una buonasera. Chiuso già, chiuso, chiuso. Siamo anche salutati. E niente, noi eravamo, diciamo, con Giovanni, grandi amici dei vestiti, fuori legge della 26, era un ragazzino, veniva a spesso il paese, facevamo il YouTube, no, c'era anche mio zio, che sono abitato qui a metà sotto, Gavino commissario, e niente, c'era Ariete, che abita anche la Monti, dei primi, e poi qualche altro amico che non va più a spesso, e poi se veniva la della Sacre, e ci ritrovavamo in una piazzetta lì, a benedirla loro, perché io allora la segno, niente, mi manca tantissimo, ora, mi manca tantissimo, guarda, non ci sono andato manco a poverare, gli ho fatto due pagine, una lettera di due pagine alla moglie, guarda, troppo amici eravamo con Giovanni, troppo, troppo, troppo, ti dico che veramente mi manca, riprendi, guarda. Infatti, con lì manca sì, se manca a te, diciamo, manca a me, immaginiamoci alla sua 50, ok, come si chiama, a Lucia, canta. Bene, non abbiamo più niente di apparecchiatura laboratoria, Gianni. Una persona che la radio le piace, e niente, non ho sempre a Cosio, da un euro, e poi me ne ritorno a casa. E tu Gianni, cos'è adesso, ma senti la stemmia? bene, ti sento bene. Anche tu arrivi bene su 5. Meno male, allora non ricordo 5, 21, vai sul 6.